venga l'essere accennata meglio, prima di provare a rispondere alle cose che lui diceva. Questa mattina è cominciata nel Consiglio Comunale a Roma la discussione sulla delibera. C'è una delibera programmatica di riforma delle politiche abitative del Comune di Roma. Quanto tempo ci è costata, quanta fatica ci è costata. Siamo stati bravi, credo che perlomeno per cominciare. Cambierà tutto sicuramente, però abbiamo cominciato a mettere un tassello importante. Dico questo perché, e voglio partire da questo, perché il lavoro fatto da 3 anni a questa parte, parlo della nascita e dell'esperienza di Action, ma questo non per dire che abbiamo fatto tutto noi chiaramente, perché quello che si è sperimentato in questa realtà negli ultimi anni è stata una cosa molto importante, che allude a mezzi, metodi, modalità, culture, un movimento nuovo che sta sperimentando anche una modalità d'approccio ai problemi diversi, alla città e alla costruzione di elementi comuni, ma nel territorio. Lo dico, quello che abbiamo sperimentato in questi 3 anni e che ha portato alla delibera, ma ha portato anche a quello che ha detto prima Paolo e che abbiamo visto nella parte finale di quel video, e cioè l'intervento forte del Comune di Roma a seguito di un evento che rischiava di essere drammatico, che ha portato a una decisione chiara, e cioè l'applicazione di alcuni elementi interni alla delibera nella soluzione anche delle vertenze giudiziarie che hanno colpito le occupazioni, per cui l'acquisto, l'affitto degli immobili sotto sgombero, quindi una vicenda molto forte. Ma per fare tutto ciò noi abbiamo provato a sperimentare diversi terreni, ma sostanzialmente abbiamo tratto una serie di esperienze, due che sembrano importanti e vanno sottolineate. La prima è che abbiamo, come dicevo prima, provato a sperimentare con una modalità diversa un modo di costruire il conflitto sociale nella città, quindi una modalità di organizzazione e di gestione del movimento sociale legato ai diritti dei cittadini che è un po' rotto con il passato. Intanto perché si è posto un obiettivo non rivendicativo legato alla propria esistenza, ma un obiettivo rivendicativo che dalla propria esistenza parlava a tutti. Noi abbiamo parlato sin dall'inizio non della casa per gli occupanti, ma del diritto alla casa per tutti e di come era possibile ricostruire in questa città il meccanismo che lo permetteva, cioè di come era possibile, partendo da una situazione di assenza quasi totale, pressoché totale, di una politica abitativa da parte del comune, come era possibile che con l'intervento dei cittadini, dei movimenti, delle associazioni, dei sindacati si potesse costruire un percorso nuovo. Questo chiaramente allude a molte cose, ma allude soprattutto a una cosa che a noi sta a cuore, cioè allude alla possibilità di costruire su un terreno vertenziale un'esperienza sindacale di conflitto, che parla alla città, che parla di vertenze territoriali sui diritti e sui beni comuni, che parla della possibilità di mettere intorno a delle vicende, intorno a delle questioni sociali, tutto ciò che nella società si muove, tutto ciò che può essere organizzazione e auto-organizzazione dei cittadini, per provare a costruire degli elementi, ripeto, nuovi, che provino a spostare in avanti la situazione. Questo che richiama la seconda questione, che credo abbiamo sperimentato per la prima volta in una città importante e grande come Roma, anche se in una forma probabilmente diversa da come ce la raccontano Porta Alegre o da come viene sperimentata in altri pezzi di territorio. In realtà questa vicenda della delibera abitativa, questa vicenda delle occupazioni del diritto alla casa per tutti, solleva un problema fondamentale e allude alla capacità, cioè di poter sperimentare dei livelli di bilancio partecipativo e di governo dei cittadini del territorio. Questa è stata Action, secondo noi, questo è stato il di più che abbiamo provato a comunicare inizialmente agli altri movimenti, secondariamente alle forze politiche, alla maggioranza, ma sostanzialmente a questa città, ai cittadini di questa città, dicendo che c'era la possibilità, pretendendo che ciò accadesse, che c'era la possibilità di essere governo di questa città, non di subire il governo di questa città. Ovviamente facendo questo è accaduto delle cose, è accaduto quello che sappiamo, è accaduto quello che diceva Pino Paolo, è accaduto che i fondi di Paolo a un certo punto hanno reagito, perché non ce lo scordiamo, ma questa vicenda ha veramente intrecciato forse per la prima volta da anni, non da sempre sicuramente, ma forse per la prima volta da anni si è scontrata con il tempo dei forti di questa città, alcuni di cui non conoscevamo neanche l'esistenza, perché come i tempo dei forti, alcuni funzionano senza che si sappia che esistano, o perlomeno che abbiano un potere così grande. Ad esempio la proprietà di questo palazzo, Valerion, non è Valerion che nessuno conosce perché nessuno ne ha mai sentito parlare, è un mostro economico e finanziario con sede a Milano, che eredita una parte delle proprietà immobiliari di varie gestioni e di vari padroni dell'epoca passata, ma che di fatto gestisce quasi il 30% di tutti gli immobili presi in affitto o venduti allo Stato, ai ministeri, al comune, eccetera, eccetera, eccetera. Li gestisce, ce l'ha, li dà in affitto, li vende e sulla compravendita ha costruito il proprio potere. Chi aveva mai sentito nominare lei? Ma i Natelli, di Caltagirone, di Coppola, sono questi che a un certo punto hanno deciso che questo meccanismo non andava più bene, cioè che bisognava, come dire, fermarlo in un punto. E infatti partendo dal TM Politori, che probabilmente era molto sensibile a De Laurentiis e ai suoi interessi, e poi scendendo nel Cipolla, arrivando fino a Pitello, i poteri forti sono fatti sentire. Con questa federazione giuridica, spero che qualche avvocato ci darà la delucidazione migliore in merito più attinente a questa federazione giuridica e l'attuazione a delinquere finalizzata all'invasione di immobili di proprietà privata. Questo è stato l'elemento, come dire, che ha determinato un innalzamento dentro la questione. Quindi io da questa sintesi, da questo minimo bilancio della nostra esperienza vorrei trarre delle indicazioni e sollevarle anche qui, non solo come risposta alle cose che sollevava Paolo, ma anche come discussione da voler fare insieme. La prima cosa, questa delibera solleva, a livello comunale, delibera a livello comunale, solleva delle questioni che vanno affrontate in altri modi, ma vanno affrontate anche in altri ambiti istituzionali. Ad esempio solleva la necessità che dal punto di vista economico di indirizzi di politica abitativa e metodologico provincia, regione e Parlamento sostenga questa legge, cioè che si riesca, come dire, a recepire che lì dentro c'è un senso forte, un'indicazione forte che si dà a una riforma della a una gestione delle città, e quello strumento va rafforzato dal punto di vista finanziario, dal punto di vista degli indirizzi di politica abitativa e urbanistica, ma dal punto di vista anche del metodo con cui l'abbiamo realizzato, il metodo che dicevamo prima, cioè mettere tutti intorno a un tavolo e pretendere come cittadini, o meglio, forse sarebbe dire come poveri di questa città, di essere ascoltati. L'altra questione che solleva è la considerazione sul fatto che questo avanzamento dei livelli di maturità espressi da questo movimento del diritto ad abitare, che ha messo insieme pezzi che non si erano mai parlati riguardo alla vertenza abitativa, da cittadini e associazioni dei cartolarizzati ai senza casa, agli sfrattati e a quant'altro, e quello che si è arrivato a fare con la delibera, forse, come dire, ha innescato un qualcosa di diverso, cioè ha immesso un elemento nuovo nelle forme della rappresentanza che dovremmo noi e la politica forse recepire. Ci sono fatti tanti esperimenti nel passato nelle forme di rappresentanza dei movimenti dentro le istituzioni, forse qui si tratta di fare un passaggio in avanti, perché se è vero che abbiamo voluto dire che i cittadini, i movimenti, sono un pezzo di governo di questa città e possono governare, forse è il caso che anche le forme della rappresentanza vengano riadeguate a questo livello di espressione di responsabilità civile e politica da parte della città. E credo che parla di civile. Naturalmente quello che sappiamo tutti, scritto qui sullo striscione, e cioè forse vanno riformati alcuni strumenti del codice, va rivisto il diritto dentro un'altra logica, dentro un altro meccanismo di come viene attualmente utilizzato. Ma forse c'è bisogno che per fare questo anche la politica scenda in campo in maniera forte. Un esempio, il 23 è scritto sul manifesto. 23 noi abbiamo il tribunale del riesame da parte richiesto, da parte del PM Rivello, perché vuole che noi andiamo agli arresti domiciliari, che è questa situazione delicata. Lo pretende, le cifre che gli ha dato, ma lui lo pretende, è talmente sicuro che siamo colpevoli di aver sottratto pezzi di potere, di gestione ai suoi amici della città che lui pretende che sia voi. Ecco, il giorno noi ci saremo, certo, ci saranno gli occupanti, ci saranno i pensacati e i movimenti, ma ci deve essere la politica, deve arrivare un segnale forte anche in questo tempo. Come ci deve essere la politica? E qui lo dico perché forse dovremmo aprire un altro capitolo di discussione rispetto agli strati che ancora non sono stati affrontati bene, poi spero che lo faremo meglio. Come ci deve essere la politica e ci devono essere le amministrazioni a presiedere insieme a noi, insieme agli spazzati, i picchetti antistrati? Non può essere in questa città, ci sono solo due presidenti di municipio che dicono che vengono con la fascia tricolore ai prossimi picchetti antistratto. Forse tra i nostri tanti appuntamenti, tra i tanti appuntamenti della classe politica e della sinistra di questo paese, vanno ritagliati anche questi piccoli pezzi che riguardano non solo il futuro di questa città, ma il futuro di tante persone che abitano in queste case da cui vivono nel senso che stanno qua. Sarebbe un segnale forte, credo, che cominciamo a mandare dal punto di vista concreto anche come capacità di modificare le forme di espressione anche della politica in questo paese.